Radicali Italiani assieme a Mattia Santori, ci raggiungerà Jasmine Cristallo, sempre della direzione nazionale del Partito Democratico. Abbiamo una serie di iniziative in campagna, la prima a Caivano e la seconda a Salerno. Nella prima, quella di Caivano, andiamo lì nella piazza principale di Caivano, dove sta insediata la commissione dei tre commissari prefettizi che sostituiscono il sindaco, perché il comune si è sciolto dal governo qualche giorno fa, per due cose: uno, per cercare di contrastare con una narrazione alternativa quella che è stata una campagna mediatica, ideologica, ossia la guerra alla droga a favore di telecamere di questo governo e della premier Meloni. Noi pensiamo che non sia con la redata spot in orario di telegiornale di prima serata che si risolve l'endemico problema della criminalità organizzata e delle infiltrazioni criminali nell'economia pulita e nella società, ma è colpendo le mafie al cuore, e il cuore delle mafie ovviamente è la parte economica. Togliere i proventi del traffico illegale di stupefacenti, almeno del traffico di cannabis, dalle grigie della criminalità organizzata, e dare un colpo, se non letale, comunque determinante alla vita delle cosche della criminalità organizzata. Per questo motivo andiamo a parlare di economia e di regolamentazione della cannabis proprio nell'epicentro del dibattito politico e mediatico che è Caivano. Ovviamente ci finiamo e ci arriviamo 3 giorni dopo la prova del decreto legge Caivano, un altro decreto spot dove si usa una tragedia umana e si usa la denuncia dell'infiltrazione della criminalità nella società, in questo caso locale, ma non solo, per continuare una stupida, cieca, inutile guerra ideologica ai consumatori di sostanze, proprio perché con il decreto Caivano si cancella la mia identità. Pochi giorni fa in Ohio, negli Stati Uniti, si legalizza nel 24esimo stato degli Stati Uniti che legalizza la cannabis, qui anche il passaggio di un singolo spinello in tutta Italia diventa un reato da processo e da galera, e in più c'è la criminalizzazione del disagio, della marginalità dei ragazzi, dei ragazzini con il decreto Caivano. Quello che facciamo oggi è andare a toccare con mano che dalla televisione, dalle radio, dai social ovviamente si capisce il giusto, e quello che andiamo a fare è ripristinare una retorica, cercare un attimo di mettere i bastoni tra le ruote a quella che è una macchina mediatica imponente, perché quando si dispone l'esercito, quando si spostano apparati dello Stato verso una piazza di spaccio, l'ascoltatore, l'italiano medio si rassicura, ma andiamo lì a spiegare che questo non risolverà niente della questione delle droghe. Al massimo cambierà una piazza di spaccio, al massimo verrà arrestato qualche ragazzino, ma non verrà risolto un problema ormai endemico e che cerchiamo di sconfiggere a suon di ideologia, sapendo che non cambierà assolutamente nulla. Questo lo facciamo personalmente, io sono di Cristallo, ci ha seguito anche Mary De Martino, sempre di Bologna, prima della manifestazione a Roma del Partito Democratico, di tutte le opposizioni congiunte. Ci saranno anche i radicali domani in piazza, perché un conto è andare in piazza e dire no a dire Caivano, un conto è andare a Caivano e dirlo direttamente sul posto. La nostra politica sulle droghe, sulla legalizzazione della cannabis in generale è chiara a tutti: in un paese in cui ad oggi nel 2021 non si può neanche spiegare la parola, perché si viene bannati dai social e dagli algoritmi, bisogna usare gli stratagemmi come punto esclamativo o il simbolo del dollaro, perché altrimenti si viene censurati. Andiamo a ripristinare quella che è una retorica giusta, cioè che il primo problema è combattere la censura e combattere una retorica che ha condannato ad essere una categoria marginalizzata consumatori, imprenditori e tutte le persone che lavorano e consumano nel mondo della cannabis, che ad oggi sono una categoria che non ha gli stessi diritti.